Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Poco prima che il governo cadesse, il presidente del Consiglio Mario Monti fece una dichiarazione che finì su tutti i giornali, dando luogo a non poche speculazioni, affermando che il sistema sanitario nazionale non sarebbe sostenibile nel lungo periodo dal punto di vista economico, per cui sarebbe necessario ricorrere a tagli oppure a non meglio precisate forme alternative di finanziamento. L'annuncio, che per la verità è apparso anche un po' minaccioso, almeno ad alcuni, ha dato il là a diverse speculazioni, come dicevamo, ma anche a qualche proposta decisamente interessante. Stasera allora vogliamo parlarvi della riflessione che ha fatto a questo proposito AICAR. AICAR è un'associazione che ha come scopo la diffusione della cultura tecnica in settori come quello della climatizzazione, sia civile che industriale. In linea con noi c'è il presidente di AICAR, Michele Vio, che conosco molto bene, per cui ciao Michele. Ciao e buonasera a tutti. Allora Michele, voi parlate sostanzialmente della possibilità di innescare nella sanità una sorta, chiamiamolo così, di circolo virtuoso che per step successivi potrebbe portare a un forte risparmio energetico e di conseguenza anche di denaro. E questo tema è molto sottovalutato, quello del risparmio che si può avere di denaro pubblico lavorando sull'efficienza energetica. Allora, quale sarebbe la prima mossa da fare per innescare nella sanità questo circolo virtuoso? Beh, bisognerebbe cominciare da quelli che sono gli interventi tra virgolette a costo zero, cioè quelli che si possono fare con costi abbastanza limitati intervenendo su alcuni parametri. E quali possono essere questi parametri? Beh, innanzitutto la temperatura e l'umidità dell'aria tenuta all'interno degli ambienti e poi anche la quantità di aria che viene inviata nei vari ambienti. Che viene proprio ricambiata, ecco. Bisogna dire che in campo, diciamo, nel campo della sanità ci sono delle regole abbastanza precise, no? Su temperatura, umidità, ricambio dell'aria, per ragioni che si possono facilmente immaginare. Per esempio, in una sala operatoria è chiaro che bisogna stare molto attenti al rischio che ci possano essere delle infezioni, no? E per cui ci sono dei regimi a volte anche estremi. Ci puoi fare qualche esempio? Sì, ecco, il problema sta tutto là. Noi abbiamo una legislazione da questo punto di vista molto precisa, che però è un po' datata. È una legislazione fatta con il principio fondamentale di cercare di mettere i pazienti nelle condizioni migliori, ma il caso delle sale operatorie, ad esempio, è emblematico, cioè il numero di ricambi ora previsto è stato fatto circa 30 anni fa sulla taglia delle sale operatorie che c'erano allora, molto per piccole. Diluire, sì, molto piccole, attorno ai 30-40 metri quadri, per diluire le quantità di gas anestetizzanti che c'erano all'epoca. Adesso certo, le sale operatorie sono diventate grandi il doppio. Gli anestetizzanti che si usano non sono più gassosi, sì, praticamente. Sono cambiate le condizioni. Esatto, mentre le nostre portate d'aria sono rimaste le stesse, anzi le stesse in percentuale, per cui raddoppiando il volume della sala operatoria raddoppiano i contenuti, la quantità d'aria ricambiata, e questo diventa un costo assolutamente inutile. Soprattutto poi non ci permette la legislazione di fare dei ricircoli d'aria, per un'interpretazione anche abbastanza sibillina di un punto, mentre in tutti gli altri paesi industrializzati le sale operatorie vengono fatte con ricircoli orari. Cioè, ecco, spieghiamo bene, in pratica in Italia si è costretti a prendere aria dall'esterno, riscaldarla, raffreddarla, umidificarla, quello che serve, e buttarla dentro, mentre altrove si preleva l'aria dalla stessa sala operatoria, la si filtra evidentemente, sì, e la si butta nella sala operatoria. Ecco, queste cose sembrano dei dettagli, no Michele? Però poi alla fine, quando si fanno i tagli, si finiscono sempre per lasciare a casa i precari, perché è molto più facile che entrare dentro a questioni di questo tipo. Assolutamente sì, anche perché poi il discorso delle sale operatorie forse è marginale ma emblematico. Sulle stesse cose potremmo parlare a livello di degenze ospedaliere. Nelle degenze ospedaliere normalmente si tengono tre volumi ora, quando in alcuni casi tre volumi d'ora vuol dire che ogni ora viene cambiata, ricambiata tre volte tutta l'aria contenuta all'interno della degenza, del reparto. Esattamente, quindi vuol dire che su 300 metri quadri di degenza mediamente si cambiano 3.000 metri cubi di aria all'ora. D'aria all'ora, ecco. In alcuni casi questi valori sono eccessivi, in altri magari sono un po' ridotti, certo, perché ovviamente un reparto grandi ustionati non è la stessa cosa che un reparto di ortopedia, dove si possono ottenere ovviamente dei volumi certo bassi. Se voi pensate che all'anno ogni metro cubo d'aria trattato allora costa da un euro e mezzo a due euro e qualcosa a seconda di tutta una serie di parametri, si può immaginare tutti i risparmi che si possono avere ad esempio solo riducendo di un volume ora l'aria nei reparti dove effettivamente non serve. E poi da lì si procede, no? È questa l'idea, cioè si crea un tesoretto e lo si reinveste in efficienza energetica. Assolutamente sì. Provando a dare qualche cifra, questo primo giro, diciamo, che potrebbe avvenire quasi solo sulla base di interventi di regolazione, di termostati, roba del genere, quanto potrebbe fare risparmiare e poi quale potrebbe essere la sequenza? Se tutte le strutture sanitarie fossero gestite bene, almeno 10 milioni di euro l'anno, ma siccome non tutte sono gestite bene, dovremmo andare decisamente di più, quindi qualche decina di milioni di euro all'anno. Poi con questo dovremmo appunto creare un tesoretto con cui si possono fare degli interventi molto più seri, che possono essere interventi ad esempio di messa in efficienza dei generatori, delle macchine interne, utilizzando motori elettrici ad esempio ad alta efficienza, sistemi ad inverter e così via. C'è un'idea di quanti soldi si potrebbero risparmiare sul versante energetico? Ma se le facessimo funzionare bene davvero, centinaia di milioni di euro l'anno, cioè cominciano a diventare cifre molto, molto importanti. Grazie Michele Vio, noi ci risentiamo domani perché vogliamo provare a estendere un po' questo ragionamento a tutto il patrimonio edilizio del paese. A domani!